pensando che molti di voi si sono messi all'ascolto da poco, da pochissimo, riprendiamo la narrazione della storia del nostro carissimo San Giovanni Maria Vianney. E veniamo a un punto molto delicato della sua vita, quel capitolo che si intitola Calunnie e tentazioni. Sono due cose ben distinte, le calunnie e le tentazioni. Vediamo prima di tutto le calunnie. Giustamente si dice che non c'è nessuna opera buona che si compia senza sofferenze, e come c'è, non c'è redenzione se non c'è spargimento di sangue. E i santi non hanno mai fatto nulla di grande, di bello, di buono senza la sofferenza. E il curato d'Arsi era molto ben convinto di queste cose, dato che lui stesso aveva scelto come via per attirare le anime a Gesù la via della penitenza, della preghiera e della penitenza. Sappiamo già con quale crudeltà si trattava, si flagellava, a quali digiuni si sottoponeva, a quali mortificazioni, insomma, che per noi sono quasi inconcepibili. Però a questo momento della sua vita è entrata anche un'altra grande prova, la prova permessa da Dio per purificare il suo servo, per renderlo ancora più santo e quindi ancora più strumento, ancora più efficace alla salvezza delle anime. E furono soprattutto le calunnie. Certo, abbiamo già capito dallo stile con cui lui predicava, abbiamo già capito che si era attirato diverse antipatie in paese. Però questo lui lo faceva proprio perché lo sentiva come suo dovere. Non interessava attirarsi antipatie, ma a lui interessava soltanto compiere il suo dovere, come dimostra da queste parole di una sua predica. Se un pastore non vuole dannarsi, diceva, bisogna che allorquando gli capita un disordine in parrocchia, metta sotto i piedi il rispetto umano e il timore di essere disprezzato ed odiato dai suoi parrocchiani. Fosse anche sicuro di essere messo a morte quando discenderà dal pulpito, questo non lo dovrebbe trattenere. Un pastore che vuole fare il suo dovere deve avere sempre la spada in mano. Quindi la preoccupazione più grande per Don Vianney era quella che lui non voleva dannarsi e non voleva che le anime si dannassero. Quindi cosa non faceva pur di ottenere questo risultato? E queste persone che frequentavano la Chiesa si vedevano piovere addosso ogni giorno rimproveri, scongiuri, minacce quasi continui. Ecco che quindi si prepara la ribellione da parte di pochissimi. Comunque sarà una ribellione molto molto dolorosa per il santo curato. Adesso sentiamo cosa dice un testimone circa le sue prediche. Il signor curato predica a lungo? Chiese un giorno Monsignor Covert al signor Demieux. Sì, molto a lungo e sempre sull'inferno. Batteva le mani e diceva, figli miei, siete perduti. Oppure si batteva il petto, e che petto aveva? Vi sono di quelli che dicono che non c'è l'inferno. Ah, lui ci credeva. Quindi il santo curato d'Ars ce la mette tutta. In seguito sentiremo che userà dei toni più dolci, ma per il momento i toni sono sempre piuttosto drastici. Ecco, e lui spiegò al suo gregge che esiste anche una santa collera. Ecco, è la collera che viene dallo zelo con cui si devono sostenere gli interessi di Dio. Sentiamo questo altro brano. I parrocchiani di Ars non tardarono ad accorgersi che il metodo di cura pastorale del curato Vianney era ben diverso da quello usato dai suoi predecessori. Ed il primo effetto nelle famiglie fu la mormorazione contro di lui, ritenuto troppo severo. Un fanciullo non era stato giudicato degno della soluzione, oppure si era vista ritardata la comunione. «E perché il mio?» gemeva la madre ferita nel suo amor proprio. E poi quel giovane curato non era troppo rigoroso anche contro i profanatori della domenica, contro i frequentatori delle osterie e contro gli appassionati del ballo. Naturalmente, l'intrepido moralista si tirò addosso tutti gli osti del paese. Se quel prete non voleva vivere come tutti gli altri, affar suo, ma lasciasse almeno in pace gli altri. Questo era il responso pratico che davano tra un bicchiere e l'altro i filosofi di Ars. Certo, è una tendenza anche moderna, quella di dire, lasciateci in pace, predicate, fate come volete, però lasciateci in pace. Ecco, e sembra inverosimile che anche le persone buone durarono molta fatica ad abituarsi ai metodi del curato d'Ars. A quanto pare più le persone erano buone, desiderosi di compiere il bene, e più il curato d'Ars le stimolava a fare meglio e le trattava talvolta anche con molta, molta severità. Per esempio si racconta di una persona ricca che era venuta ad Ars da Lione, dove abitava in un appartamento lussuoso, era venuta a stabilirsi proprio presso il curato d'Ars per un progresso spirituale, e dice che approfittava di tutte le circostanze, dice, per mortificarla, per esercitarla nello spirito di rinuncia nelle grandi e nelle piccole cose, e giunse perfino a proibirle di assistere ai suoi catechismi. E questi lamenti, questi pettegolezzi della gente, piano piano giunsero anche ai suoi orecchi, come risulta da questo brano di questa predica. Se un pastore dice un giorno, dopo violente invettive contro i cattivi esempi dei genitori, vuol fare loro conoscere le loro colpe e quelle dei loro figli, essi vanno in collera, lo disapprovano, ne parlano male e lo contraddicono in mille modi. Se una persona grida ancora, ho qualche difficoltà col suo pastore, che forse le ha detto qualche cosa per il bene della sua anima, lo odierà, ne parlerà male ed ascolterà volentieri dirne male. Di più convertirà in male tutto quello che di lui si dice. Eccone un altro. Se non giudicate bene ammetterlo alla Santa Comunione, vi risponderà villanamente e vi serberà rancore, come se si fosse responsabili del male che egli ha fatto. Un'altra volta ancora sarà una persona a cui fu rifiutata la soluzione, che si rivolterà contro il confessore che ai suoi occhi sarà peggio di un demonio. Ecco, fatto sta che alcuni suoi parrocchiani sono andati un giorno in casa sua e l'hanno decisamente invitato a lasciare la parrocchia al più presto. Sappiamo che il Santo Curato non conservò risentimento per questo fatto e ne parlò sempre e solo con dolcezza e solo fra gli intimi. Tuttavia questa prova fu molto sensibile. Ecco, però adesso dobbiamo parlare in modo specifico delle calunnie sul suo riguardo. E riguardano due fatti soprattutto. Anzitutto alcuni giovani della parrocchia che purtroppo non potevano più dar sfogo al loro divertimento preferito, che era il ballo, misero in circolo la voce che il curato d'Ars era così pallido, così magro, così emaciato, perché aveva una vita di segreti disordini, aveva una doppia vita. Da un lato si mostrava come una persona santa, come una persona buona e perfetta, ma dall'altro lato aveva una vita segreta di vizio, di peccato. Per quello era così ridotto. Per cui cominciarono a renderlo oggetto delle loro canzoni oscene. Crearono delle canzoni proprio contro di lui, per metterlo in ridicolo. E poi gli scrissero delle lettere anonime piene di ingiurie. Affissero anche dei manifesti sulla porta della canonica. Anzi, lo facciamo leggere a Eugenio questo fatto. Essendo successo uno scandalo nel villaggio, una povera ragazza disonorata era diventata madre in una casa vicina alla canonica. Vi furono dei miserabili allora che ne approfittarono per offuscare la fama del servo di Dio. Fu una chiacchiera senza consistenza che la sua virtù fece tosto cadere, poiché nella sua condotta non si poteva mai sorprendere nulla che meritasse il minimo biasimo o che potesse far nascere l'ombra del sospetto. Ciò nonostante, la sua porta fu imbrattata di lordure e per 18 mesi una persona l'insultò tutte le sere sotto le sue finestre come se la sua fosse stata una vita di disordini. Certo, dovette rappresentare una grandissima umiliazione per il curato d'Ars essere addirittura sospettato di una cosa così grave, di essere responsabile di questa maternità. Ecco, comunque tutto tollerò, tutto accettò con pazienza, come venisse proprio dalle mani di Dio che lo voleva purificare dai suoi peccati. Dovete sapere che a questo punto però la parrocchia di Ars cambiò diocesi. Ci fu una ristrutturazione delle diocesi per cui Ars passò sotto una diocesi più piccola. Da Lione passò alla diocesi di Belley, dove c'era come vescovo Monsignor Devi, il quale non conosceva affatto il curato d'Ars, per cui comandò a uno dei parroci della zona di fare un'indagine rigorosa su chi fosse questo curato e se per caso queste voci non fossero davvero fondate. Questo parroco, non sappiamo come fece la sua indagine, però alla fine l'indagine servì molto a distruggere le voci infamanti contro di lui. E però tutte queste cose influirono molto negativamente sulla sua personalità, diciamo, sulla sua tempra psicofisica. E dice che furono davvero giorni, ore, mesi, anni di vera agonia. Ed era così oppresso da queste voci sparse sul suo conto che voleva lasciare la parrocchia. E l'avrebbe fatto se una persona di fiducia, che proprio in quelle ore lo avvicinava, non lo avesse convinto che la sua improvvisa partenza avrebbe potuto dare credito alle voci infamanti. Ecco, per cui lui, per non creare davvero uno scandalo, ecco, rimase al suo posto. Allora a questo punto però si mette ancora con maggiore fiducia nelle mani di Dio e esercita la carità verso queste persone che l'hanno così gravemente infamato e calunniato. Li tratta da amici, da fratelli, anzi talvolta li colma di favori. E pensate che una volta una di queste persone subisce questo grave castigo di andare al manicomio. E quando lui l'ha saputo, ha cercato di non parlarne mai con nessuno, e anzi approfittò di tutte le occasioni per rendere a questa famiglia dei nuovi servizi. E diceva spesso: dobbiamo pregare molto per loro, dobbiamo pregare molto. Ecco, un'altra cosa che dobbiamo dire è che il curato d'Ars a un certo punto addirittura trovò delizia in queste contrarietà. Questo lo sanno fare soltanto i santi. Ha detto un testimone: io so che non solo Don Vianney ha sopportato con pazienza questi indegni trattamenti, ma che nel tollerarli provava una gioia tutta soprannaturale. Difatti, più tardi, lui stesso dirà che questo è stato il tempo più bello della sua vita, della sua esistenza. E avrebbe tanto desiderato che il vescovo fosse davvero convinto della sua colpevolezza, che lo allontanasse davvero dalla parrocchia. Così lui avrebbe avuto tempo di piangere la sua povera vita in solitudine. Spesso ripeteva questo termine: la mia povera vita, io voglio passare il resto dei miei anni a piangere la mia povera vita. Ecco, adesso sentiamo cosa lui stesso disse in un'occasione. Pensavo dovesse venire il tempo in cui sarei stato cacciato da Ars a colpi di bastone, sospeso dal vescovo e costretto a finire i miei giorni in prigione. Ma non ho meritato questa grazia. E dopo le inchieste del suo decano di Trevaux, vedendo che Monsignor Devi, invece di allontanarlo da Ars, era felice di lasciarvelo, gemeva: mi si lascia qui come un cane alla catena, eppure mi si conosce. Ecco, questi sono i santi, che a un certo punto amano così tanto la croce e l'umiliazione, che insomma preferiscono proseguire su quella strada e anche di peggio. Comunque, Don Vianney non ebbe bisogno di difendersi da queste accuse, perché la sua vita parlava da sola. E possiamo fare qualche esempio circa il suo modo delicatissimo di trattare l'altro sesso. Già si racconta dei rapporti con sua madre. Il curato d'Ars fin da piccolo aveva timore ad abbracciare sua madre ed era sempre così riservato, così modesto, che non si permetteva neppure di toccare i fanciulli. E si racconta che quando le bambine del castello lo avvicinavano festose con i loro fratellini, qualche volta lui accarezzava i fratellini ma non le fanciulle. Quindi era una persona molto delicata nel trattare l'altro sesso. E dice che la sua attenzione scrupolosa su questo punto era così intransigente che un giorno giunse a rimproverare alcune fanciulle che si erano permesse soltanto di toccare la mano di un sacerdote di passaggio. Ecco, secondo lui era già una cosa grave che queste fanciulle avessero toccato la mano di quel sacerdote. E quando era malato non permise mai a donne di curarlo, ma solo a uomini. E permetteva alle donne di prestargli qualche piccolo servizio, però sempre metteva in luce che questo servizio era recato non a un uomo ma al Signore, che lui rappresentava in quel momento il Signore. E dice una sua devota, che però i primi anni fece molta fatica a capirlo, gli disse: io non osavo quasi neanche guardarlo e neanche parlargli. Mi sembra di averlo servito solo e sempre per amor di Dio, senza affezione naturale. Ogni volta che gli portavo qualche cosa mi preparavo già ad essere rimandata. E per questo motivo possiamo capire come non accettò mai neanche una domestica. C'era qualche buona donna che prestava lui qualche servizio, però dice che quando andava per mettere in ordine un po' la canonica, per fare un po' di pulizia, non doveva mai andare quando lui era presente, ma solo quando lui era assente. E la reputazione di queste persone era al di sopra di ogni sospetto. E si dice che quando era in presenza di donne che lo visitavano, lui non si sedeva mai e, considerando la brevità della sua parola, la modestia del suo sguardo, la gravità del suo portamento, lo si sarebbe detto un angelo in carne umana. Dicevano alcune persone che si confessavano da lui che il curato d'Ars, con le donne, bastava uno sguardo che penetrava fino in fondo all'anima, però poi non guardava più, era solo quello sguardo che gli bastava a capire la situazione dell'anima che aveva davanti. Infine, egli stesso ha confessato che non avrebbe mai conosciuto il male se non fosse entrato da un certo giorno in poi in confessionale. Quindi lui conobbe il male soltanto attraverso questo ministero di sacerdote e confessore. Solo questo ministero gli rivelò la profonda miseria umana, perché lui prima non sapeva neppure cosa fosse il male, soprattutto l'impurità. Ecco, dopo, diciamo, questo suo comportamento così esemplare, possiamo dire con certezza che la maggioranza dei suoi parrocchiani non mai minimamente sospettò di lui. Capirono tutti che si trattava di pochissimi malintenzionati che volevano vendicarsi perché il curato d'Ars aveva loro tolto il divertimento preferito. E anche i sacerdoti della zona, anche se non lo capirono subito, però sappiamo che non prestarono mai orecchio a queste dicerie, a queste deplorevoli dicerie, e diciamo che fra il clero dei dintorni fu considerato quasi subito un santo. E sappiamo che i suoi parrocchiani approfittarono di ogni circostanza anche per difenderlo. Comunque a un certo punto la tempesta passò e non si rinnovò mai più. Magari Don Vianney aveva preferito che continuasse questa tempesta, perché appunto lui era setato di umiliazioni, era setato di penitenze, anche morali, però il Signore non permise che questo suo servo venisse ulteriormente perseguitato da questa prova così forte. E soprattutto gli abitanti di Ars furono colpiti da due fatti. Un fatto abbastanza interessante di una donna di malaffare che giunse ad Arser fingendo di doversi confessare, che però non riuscì mai ad avvicinarsi al confessionale, come se una forza la teneva lontana. E tutti interpretarono questo fatto proprio come una prova, come un segno che il loro curato era un uomo di provata e specchiata virtù. L'altro episodio impressionante è quello dei gigli. Ogni anno la contessina di Ars era solita offrire al curato per la festa di San Giovanni Battista un mazzo di gigli. Un anno non le fu possibile offrire questo mazzo di fiori alla vigilia e lo portò al curato nel giorno della sua festa, in sacrestia. Don Vianney lo prese, ne ammirò la freschezza e l'arte con cui i fiori erano stati disposti e lo pose sulla finestra in pieno meriggio, quando il sole ardente della stagione avrebbe dovuto guastarlo in qualche ora. Invece, dopo 8 giorni, quei fiori avevano ancora tutto il loro splendore e tutto il loro profumo. Bellissimo fatto, che appunto gli abitanti di Ars interpretarono come un altro segno della sua purezza. Ecco, adesso cambiamo pagina, adesso è quasi mezzanotte, concludiamo queste prove del curato d'Ars toccando un altro argomento molto delicato. Non soltanto furono le calunnie a tormentarlo, non soltanto quello che lui aveva scelto volontariamente di patire, le sue penitenze, i suoi digiuni, eccetera, le sue veglie, ma ci fu anche un'altra prova molto grave in questo periodo, una prova che conosciamo molto bene da altri grandi santi, come per esempio San Giovanni della Croce, come per esempio Santa Teresina del Bambino Gesù, eccetera. Cioè, in pratica, una forte prova morale, che è una specie di tentazione di disperazione. Ecco, lui era profondamente convinto di essere un poveraccio e qualche volta dubitava perfino di potersi salvare. Questo derivava anche dal fatto che sentiva fino a troppo il peso della sua responsabilità di parroco. Quindi non gli furono ignote quelle ansietà, quelle incertezze per le quali, dice Santa Teresina del Bambino Gesù, non vi è conforto della terra cui più non si pensa, né quello del cielo al quale non si è ancora giunti. Ecco, e quelle ore di agonia nelle quali l'anima si crede, come dice San Giovanni della Croce, abbandonata completamente da Dio e per sempre. Ecco, il curato d'Ars sperimentò anche questa dolorosissima prova. Ed era proprio in quei momenti che lui voleva fuggire, per andare in qualsiasi posto da solo, per piangere la sua povera vita. Però ecco che il curato d'Ars impara una cosa importante, che la croce diventa leggera quando la si ama. Soffrire amando, diceva, non è più soffrire. Al contrario, fuggire la croce è come restarne oppressi. Bisogna domandare l'amore alle croci. In questo caso esse diventano dolci. Ne ho fatto l'esperienza per 4 o 5 anni, quando ero calunniato e contraddetto. Avevo allora quasi più croci di quelle che potevo portare. Cominciai a domandare l'amore alla croce e ne fui felice, anzi, ho constatato che non c'è felicità che in questo. Così quantunque una tempesta furiosa avesse assalito la sua anima, che ne aveva raggiunto la sommità in cui abitano la confidenza e la pace. Un giorno, ha detto Don Monni, alla giovane missionario gli chiese se le sue opere non gli fossero mai fatto perdere la pace. La croce, disse con un'espressione celeste, la croce può forse far perdere la pace? Piuttosto la croce porta la pace nei cuori. Tutte le nostre miserie stanno nel fatto che noi non l'amiamo. E qui dimostra soprattutto di essere un santo. Dunque dobbiamo dire ancora una cosa, che Don Vianney, proprio a causa di queste pene morali, era così provato che molti ebbero compassione di lui, anche la contessina di Ars, la quale gli combinò un tiro mancino e fece venire nel castello un medico che lo visitò diligentemente e accuratamente e gli diede questi consigli. Oltre ai mezzi della medicina che io gli prescrissi, aggiunge l'uomo della scienza nella sua minuta ricetta, è bene che il curato si nutra di minestra con grasso o latte, prenda carne di pollo o di vitello, birra, frutta cruda o cotta, pane fresco, arrosto con burro, miele, tè con latte zuccherato e molta uva ben matura. Possiamo essere certi che il curato d'Ars ascoltò in tutto pienamente questi consigli del dottore, cioè non li ascoltò affatto, anche se il medico parlava per il suo bene. Ed infine, avete sentito che ormai già la mezzanotte è suonata, dobbiamo dire che a un certo punto il curato d'Ars, oppresso da queste croci quasi insopportabili, desiderò davvero cambiare e scrisse al vescovo che voleva essere trasferito. Naturalmente cominciarono ad agitarsi i suoi parrocchiani, soprattutto gli abitanti del castello. Fecero pressione presso il vescovo perché impedisse al santo curato di lasciare il paese. Ma dall'episcopio non si rispose nulla per molto tempo. E quando si rispose positivamente. Rispose al curato d'Ars: d'accordo, se vuoi andare via, noi ti diamo una parrocchia più grande, molto più grande di quella. Sei disposto? Sei d'accordo? E così il vescovo, in questo modo, dimostrò di non aver creduto a quelle dicerie calunniose verso di lui. E dovete sapere che questo paese dove lui lo avrebbe voluto mandare era 5 volte più grande di Ars. E il vescovo aveva le sue buone ragioni per mandarlo lì, perché era un paese molto difficile, dove c'erano stati recentemente dei parroci, dei sacerdoti, che avevano, diciamo, creato delle sette fanatiche, che avevano come massima espressione di culto quella di farsi torturare, di farsi flagellare. Addirittura una donna era stata proprio crocifissa in chiesa. Ecco, erano pazzie create appunto da questi sacerdoti fanatici. Quindi il vescovo vuol dire che dimostrò molta fiducia nel curato d'Ars se lo voleva mandare in un paese così difficile. E il curato d'Ars come reagì? Dice che dapprima esitò, poi credette meglio accettare e infine riflettendo sulla sua povera miseria cambiò idea e diceva: a me disgraziato, stavo per acconsentire ad andare a una parrocchia grande, io che faccio fatica a resistere alla disperazione di una parrocchia piccola. Quindi non accettò e quando poi in seguito incontrò il nuovo parroco di questa parrocchia di Farin, gli disse: Monsignor Devi, vescovo, voleva mettermi al vostro posto, ma io ebbi paura di quella setta di fanatici. I pagani si convertono più facilmente che i giansenisti, disse. Un giorno si presentarono a me 4 dei vostri parrocchiani per chiedermi se potevano salvarsi senza andare in chiesa, accontentandosi di pregare in casa. Io risposi: miei amici, che pensereste voi di un figlio che dicesse: amo molto mio padre, ma mia madre non la voglio vedere? E quindi il vescovo non insistette presso Don Vianney e senza fargli altre proposte lo lasciò nel suo piccolo villaggio. A questo punto noi dobbiamo concludere i nostri lunghi interventi. Alla fine sembra di aver fatto tutto un risotto senza nessun ordine, senza nessuna logica. Comunque noi col nostro cuore vi abbiamo parlato. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.